c'è stato un licenziamento per giusta causa perché ho rubato, diciamo, dalla mensa aziendale, non è il caso di raccontarlo. Vabbè, ma se erano i cracker, Falasca. Deborah ha detto parlane tu, perché c'era, perché sai che lei non vuole dire parolacce, no? No, vabbè, ma Stefano, per carità, ecco, del cielo. Buongiorno, magnifiche. Complimenti alle due fate turchine. Buongiorno, innanzitutto saluto le due monelle che sono bellissime e bravissime. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Nicoletta? Nicoletta, guarda, un po' mi spiace anche, però oggi ti voglio mettere sotto pressione, ti metto alla prova parlando di mutui. Beh, sotto pressione, Deborah, per modo di dire, perché lo stress da mutuo immagino che la pressione la faccia salire, perché è una bella preoccupazione accenderlo, ma anche non poterla accenderlo e soprattutto pagare ogni mese. È vero, ma il comune è mezzo gaudio, Nicoletta, perché la domanda dei mutui da parte delle famiglie in realtà sta crescendo leggermente, sta tornando a crescere, speriamo siano sempre di più anche quelli che lo ottengono. 800 24 00 24, raccontateci se state pensando di accendere un mutuo, se già lo avete fatto, se invece non ce l'avete fatta, se la preoccupazione del mutuo vi mette sotto pressione. Oggi infatti a Cuore Denari parleremo anche di pressione, perché non è solo la preoccupazione del mutuo a farli impennare, è una cosa certa, con i consigli dei nostri esperti la pressione vogliamo tenerla sotto controllo. Voi lo state facendo? La controllate ogni tanto? Allora dateci i vostri numeri anche via SMS al 349-238-6666. Come sempre potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Al resto ci pensiamo noi. Partiamo. Salva Danaio. La moglie di Patel vuole che dia via la sua Camaro del 69. Oh. Abbiamo scommesso su quanto tempo resisterà. Patel ha provato un minivan la settimana scorsa. Cosa? E allora? Non vuol dire niente. Io vado a vedere case con Olly, ma mica la compriamo. Che c'è? Fratello. Che c'è? Quando tua moglie dice che è solo una guida di prova del minivan, ti stai comprando un minivan. E quando dice che state solo guardando le case, stai comprando una casa. No. Oh sì, come no? Io non compro una casa. Controlla le ricevute. Benvenuto nel club del mutuo. È un club piuttosto affollato quello, perché credo che ci siamo in molti, ci siamo iscritti in molti a questo club. E comunque, la crisi economica degli ultimi anni ha messo tutti sotto pressione, anche noi. Nicoletta, tu lo sai meglio di me, che l'abbiamo dovuta raccontare in lungo e largo. E se c'è una questione che mette sotto pressione molte famiglie, beh, quella è la rata del mutuo. Come abbiamo raccontato molte volte, la crisi ha reso le banche più severe nel concedere credito per l'acquisto della casa. Dall'altra parte, chi il mutuo lo aveva già, in molti casi ha dovuto sospenderlo per l'impossibilità di rispettare l'impegno mensile della rata. Pensate che sono oltre 10.000 le famiglie che da maggio 2013 fino alla prima settimana di gennaio 2014 hanno potuto sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate dei mutui grazie al fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa. Deborah. È vero, è un'iniziativa avviata lo scorso anno che ha sostituito la moratoria dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, concordata con le associazioni dei consumatori. È portata avanti, pensate, dal 2010. Questa iniziativa ha permesso la sospensione del pagamento delle rate dei mutui a ben 100.000 famiglie, quindi pensate in quante si sono trovate in difficoltà. È vero, e accanto a questa cifra che ci racconta in che misura si sono trovate in difficoltà molte famiglie, c'è un altro dato che invece ci dice che forse, dico forse, qualche segnale di cambiamento c'è, e questo ci solleva un po' il cuore. Ci opprime un po' meno, diciamo. Le famiglie italiane stanno ricominciando a comprare casa, a pensare a questo progetto di vita. Lo scorso mese di dicembre ha fatto registrare una crescita nella domanda di mutui da parte delle famiglie del 6,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Per il sesto mese consecutivo, in pratica c'è stato un segno positivo. I dati sono del CRIF, questa è una buona notizia. Vito Lops del Sole 24 Ore, autore di un vero e proprio best seller, perché è stato veramente un campione di vendite, questo libro, Il mutuo perfetto. È troppo presto per cantare vittoria? Sì, è un po' presto, perché è arrivato questo primo importante segnale della crescita della domanda da parte delle famiglie da 6 mesi, quindi non possiamo dire che è un dato quindi relativo a un solo mese, quindi è un dato che si sta diventando sempre più strutturale, consolidando un po'. Però mancano altri elementi per poter sorridere, per poter dire che il mercato è realmente ripartito, a cominciare dalle erogazioni. Attendiamo il prossimo dato, ma comunque i dati del 2013 vedono le erogazioni in netto calo rispetto al 2012, che era stato un disastro rispetto al 2011. E poi ci sono anche i dati relativi agli spread, quelli applicati dalle banche per quanto riguarda appunto le offerte, che sono ancora circa il triplo rispetto al 2011, ai livelli pre-crisi, e quindi questi dati ci indicano che il mercato è ancora in una fase malata. Certo. Ma se dovessimo abbinare un colore a questo mercato, cioè abbiamo visto che non è rosa, ecco, non è nero. Arancione. Sì, no, il grigio non ci piace più. Comunque è comunque positivo. Dai, il colore arancione. Un colore che tira sul cuore. Senti, Vito, a proposito di cuore, mettiti una mano sul cuore. Oggi tu aiuterai i nostri ascoltatori a destreggiarsi un po', a capire qualcosa di più dei mutui, e noi invitiamo a raccontare se un mutuo, se l'avete acceso, se dovete pagare la rata, se questa vi crea preoccupazione, a chiamare. Ma qual è il primo consiglio che daresti in questo momento a chi sta, sono le 11:13, a chi sta accarezzando l'idea di accenderlo un mutuo? Ecco, cercare di confrontare il proprio potere di acquisto a livello di mutuo, quindi il proprio reddito diviso, cioè indicando delle spese di sussistenza, e quindi al netto di queste spese a ricavare dal reddito netto la quota che può chiedere, che può destinare al mutuo, confrontarla con un eventuale affitto dello stesso immobile, e quindi cominciare già a capire se è un soggetto da mutuo o un soggetto d'affitto, perché questa è la prima distinzione. Molti si imbarcano in un mutuo quando in realtà sono più tipicamente target da affitto. Un altro consiglio brevissimo che posso dare è, una volta che poi si decide di ottenere di chiedere un mutuo, è quello di non rivolgersi espressamente solo presso la banca presso cui si ha il conto corrente, perché il primo grande errore che tutti fanno è proprio quello, pensando che la banca presso cui si ha il conto corrente da anni ci conosca, si pensa che ci farà la migliore condizione del mercato, ma in realtà quella banca è costretta a seguire le policy dell'azienda, che in quel momento non è detto che siano le migliori del mercato. In questo senso la fedeltà non paga, vedi? No, assolutamente. Io ci vorrei mettere un terzo suggerimento, che è stato anche il nostro grande cavallo di battaglia in puntate del passato che abbiamo fatto con Vito e altri ospiti. Prima di firmare un compromesso per l'acquisto di una casa, andare in banca per valutare quanto questa banca è disposta a derogarci, perché spesso la cifra che ci possono dare è inferiore rispetto a quella che dobbiamo pagare per la casa, e quindi ci troviamo in difficoltà perché manca una quota, una bella fetta. Per cui prima vediamo, facciamo un confronto, quante banche possono accontentarci, che somma sono disposte a darci, e poi scegliamo la casa compatibile con questa cifra. Però Vito ci ha dato un'informazione importante, sì. Secondo me per molte persone dicono, invece che pagare un affitto pago un mutuo, no? Come se i soldi dell'affitto fossero quasi buttati. Molti ascoltatori magari si stanno interrogando, no? Proprio su questo aspetto. Io vi invito a chiamare, siete tipi da affitto o tipi da mutuo? Questa è la prima distinzione, Vito, ho colto bene? Certo. Che dobbiamo fare. 800 24 00 24. Tra l'altro, Vito, abbiamo anche parzialmente nella nostra introduzione toccato l'argomento di chi è in difficoltà attualmente a rispettare questo onere mensile, no? Questo impegno mensile. Per chi ha necessità di sospendere il mutuo, per chi è in difficoltà a pagare la rata, in questo momento c'è l'iniziativa del Fondo di Solidarietà, che ha sostituito la moratoria della quale abbiamo parlato in passato in tante puntate. Molti ascoltatori già ci scrivono che la banca non accetta la sospensione. Il problema è che adesso, per dare il via libera a questa sospensione, se una persona è in difficoltà, c'è bisogno dell'ok del Ministero, e questo complica un po' tutte le cose, no? Ministero dell'Economia. Certo, questa è l'ultima novità in questo caso, e possiamo soltanto dire che quella di ricorrere alla sospensione della rata è comunque un caso estremo che non deve essere, diciamo, l'obiettivo poi di chi chiede un mutuo o chi sta già pagando, certo, il mutuo. Certo. E infatti si stanno complicando un po' le cose, perché è vero che è stato rinnovato il fondo e sono stati stanziati altri milioni di euro, ma ovviamente siamo comunque in una fase di stretta economica, e quindi anche queste agevolazioni sono misurate un po' con il contagocce, appunto, a cui la novità del ministero. Allora, raccontateci dunque la vostra esperienza, a parte la difficoltà a pagare. Qualora foste fra quelle famiglie che invece vogliono imbarcarsi in questa avventura di comprare la casa dei propri sogni, finalmente il corteggiamento alla vostra banca si è concluso con successo, vi ha detto sì, vi conciderà il mutuo, a quali condizioni? 800 24 0024 per raccontarcelo. Angelo ci scrive che è pronto a scommettere che lo stress da mutuo diventerà una patologia del futuro. Vito, noi ci auguriamo di no, ma è indubbio che quando si è alla ricerca di un mutuo ci si deve avventurare in un mondo nuovo e, diciamo la verità, abbastanza complicato. Bisogna acquisire una certa dimestichezza con spread, Euribor, Euris, e poi impegnarsi sulla scelta del tasso e alla fine, dopo tutta questa fatica, sperare che la banca ci dica sì. Vito, allora che dici se invece che farci stressare dal mutuo stressassimo il nostro mutuo con lo stress test? Quante S mi hai fatto dire? Vito? L'Ops? Caccia pure la S nel cognome? Vito? No, appunto, lo stress test è il primo passo che bisogna chiedere prima di appunto approcciarsi a questo percorso che a sua volta crea molto stress psicologico. E, ripeto, si parte dal reddito netto dei componenti del nucleo familiare, quindi se si è single dal proprio reddito netto, oppure se si è una coppia ovviamente dal reddito netto delle due persone. Poi si sottraggono da questa quota, poniamo 3.000 euro, si sottraggono una quota di spese di sussistenza. Le spese fisse. Le spese fisse per pagare le bollette e quindi per il cibo, eccetera. Certo. La rata magari dell'asilo dei figli e quindi tutte quelle spese assolutamente incomprimibili. Le banche solitamente considerano questa quota intorno agli 800 euro e quindi dobbiamo sottrarre quindi già 800 euro dai 3.000 di partenza. Poi per chi ha dei figli a carico... solitamente le banche sottraggono un'ulteriore quota di 200 euro per figlio, e quindi in questo caso, ponendo nell'ipotesi che si facciamo abbia due figli, sono già 1.200, quindi dobbiamo togliere dal reddito netto iniziale 1.200 euro. La somma finale che abbiamo, che quindi in questo caso è 1.800 euro, va divisa per 1,5, e quindi questo importo è più o meno quello che secondo le banche noi saremo in grado di pagare come rata. Certo, potrebbe essere diciamo circa il 40% del reddito che poi netto. Va a corrispondere a quella quota lì. Quindi questo è un po' lo possiamo già fare diciamo da noi prima di recarci in banca. In questo caso abbiamo un po' il punto di riferimento della rata che noi saremo in grado di sostenere, certo. Quello che possiamo definire il potere mutuo acquisto del mutuatario, dell'aspirante mutuatario. Quindi spese fisse, calcoliamo appunto tutte quelle che sosteniamo mensilmente, non ci dimentichiamo degli imprevisti che possono capitare. Che sono tanti, ecco. Anche quelli ci danno stress. Ecco, d'altronde, la macchina che si rompe e altro ancora. D'altronde lo stress, noi lo sappiamo bene, è il nostro compagno di vita e noi siamo strutturati per sopportarlo. Anzi, in fondo siamo vivi proprio grazie allo stress. Purtroppo, come accennava Deborah, la nostra quotidianità ci espone a dosi supplementari di stress. Ci stressa, come dicevamo, accendere il mutuo, ma anche l'impossibilità ad ottenerlo. Poi c'è il lavoro, lo studio, il partner poco collaborativo, il traffico. Noi viviamo in uno stato di continua allerta, siamo stressati, e lo stress non è solo però una reazione psicologica come noi generalmente pensiamo, ma lo stress può essere valutato, pensate, e misurato anche in termini clinici e diagnostici ben definiti. Di questo parliamo oggi con il professor Massimo Pagani. Buongiorno, che è tornato a trovarci, sono molto contenta, qua buongiorno. In studio. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere in studio anch'io. Professore di clinica medica all'ospedale Sacco, Università di Milano. Professore, noi diciamo che siamo sotto pressione quando avvertiamo che abbiamo da gestire una dose supplementare di stress. Ma lo stress, alcune condizioni stressanti, la pressione la fanno salire, quindi anche quando noi diciamo sotto pressione forse ci riferiamo ad una serie di segnali, di sintomi, di sensazione che ci fanno dire che insomma qualche picco c'è stato, come ad esempio quando ci arrabbiamo, no? La pressione sale alla testa, il sangue sale alla testa. È davvero così? Ci sono questi sbalzi? C'è una relazione tra sotto lo stress che ci mette sotto pressione è un innalzamento della nostra pressione? Verissimo. E poi è una cosa che capita da tantissimo tempo e di cui c'è grande consapevolezza. Pensi che il primo a dire che lo stress va alla testa, se usiamo le parole moderne, è stato Aristotele, in un suo libretto che si chiama De Anima, in cui lui parlava di rabbia, in realtà non di stress, ma diceva che c'era la rabbia che va alla testa, fa sentire rossi, caldo, e qualcos'altro che fa venire voglia di vendetta. Ecco, lo stress va sempre letto, tanto per dare una lettura ai nostri ascoltatori, certo, da due punti di vista. C'è una parte fisiologica molto concreta, che quello è difficilmente percepibile, lo si può però misurare con degli strumenti. C'è poi una fetta soggettiva, diciamo così, psicologica, sì, che è quella che viene normalmente percepita, che anche quella è misurabile con degli strumenti appropriati. Gli uni si basano su domande, mm-hmm, gli altri su misure. Si va a misurare il cortisolo ematico, a misurare come il sistema neurovegetativo risponde, in particolare il sistema nervoso simpatico, che viene attivato dallo stress. Ma come chiave di lettura, oltre a sapere che c'è una quota psicologica e una quota fisiologica, mm-hmm, c'è da tenere presente un aspetto importantissimo che serve poi per sapere cosa fare per non essere preda dello stress, che c'è lo stress acuto e lo stress cronico. Sono due mondi diversi. È come nel mutuo: farsi prestare per andare al ristorante o per andare in vacanza è ben diverso che fare un prestito, accendere un mutuo per comprarsi una casa. Ecco, lo stress e il mutuo sono molto simili. Lo stress psicologico, lo stress fisiologico, lo stress che noi medici vediamo nei pazienti non è così diverso da quello che voi vedete nei clienti di una banca, e quindi credo che i due sistemi possano tra di loro mutuamente aiutarsi. Noi oggi vedo che Deborah è molto soddisfatta, ti piace? Mi è piaciuto molto il dottore con questo parallelo che ha fatto. Perché è vero, insomma, che il mondo dell'economia e della medicina alla fine sono molto vicini, e soprattutto il loro rapporto si è molto ristretto negli ultimi anni di crisi. E noi li stiamo avvicinando, questi due mondi, a cuore denari. Io tornerei sulla pressione che varia, no? Ha delle variazioni fisiologiche nel corso della giornata. Lei ha parlato di sbalzi, lo sbalzo temporaneo improvviso, acuto, e che noi avvertiamo quando, ad esempio, improvvisamente ci arrabbiamo. E invece ha parlato anche di stress cronico. Lì lo sbalzo è continuo, no? È uno stato di allerta continuo. La nostra pressione in alcune situazioni può impennarsi, situazioni che sono state ben evidenziate da uno studio che porta la firma del professor Mancia, che è stato nostro ospite in diverse occasioni. Allora, io vorrei farvi sentire quali sono le categorie di persone che sono più soggette a picchi pressori, a sbalzi di stress, se il professor Pagani d'accordissimo mi dice. E lo sbalzo di pressione è quasi più pericoloso della pressione stessa. Allora, manager affaticato e non gratificato, studente in procinto di dare un esame, amante in preda ad ansia da prestazione, automobilista in autostrada in fase di sorpasso, tifoso di calcio, quello davanti alla TV al momento dei calci di rigore, fumatore perché il tabacco fa salire la pressione. Professor Pagani, il mutuo non è annoverato, ma possiamo aggiungerlo noi, giusto? Assolutamente sì. Avrei un'aggiunta da fare. Come sì, è vero che lo studente è in procinto di dare un esame sotto stress, lo stesso studente, se è bravo, se sa di esserlo, se si è preparato bene, se ha fatto uno stress test alla sua preparazione, è molto meno stressato e soprattutto non è stressato durante la preparazione degli esami. Allora, c'è una fase importante, acutamente lo studente bravo e lo studente scadente sono uguali. Cronicamente, lo studente che si è preparato bene, che sa gestire la preparazione, non ha uno stress. E poi, dopo, lo studente che si è preparato bene è molto contento e soddisfatto. Lo studente non preparato, che ha passato l'esame, sembra quello che ha visto la morte veramente a un centimetro. Esattamente come Vito ci racconta, bisogna fare. Bisogna prepararsi allo stress del mutuo, bisogna prepararsi allo stress dello stress e sapere cosa fare per essere più forti a combattere le conseguenze dello stress, perché lo stress non è combattibile, c'è sempre. Intanto abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se si sentono sotto pressione e soprattutto se la pressione la controllano, e di inviarci i loro numeri all'800 24 00 24, potete dirli oppure scriverli al 349 238 6666 come ha fatto Andrea, che è un donatore Avis e quindi la pressione l'ha misurata proprio questa mattina in occasione della sua donazione, 120-85. Le piace? Perfetto. Complimenti ad Andrea, 46 anni, poi vedremo se la pressione cambia con gli anni o si modifica, quali valori dobbiamo tenere d'occhio, se è inevitabile che invecchiando un po' i valori aumentino, se si può fare qualche cosa, ma intanto andiamo a sentire che cosa ci raccontano i nostri ascoltatori. Deborah? Sì, cominciamo con Rino da Vicenza. Rino, buongiorno, probabilmente a caccia del mutuo giusto, forse ci sta pensando, se non ho capito male, per un figlio, per una figlia. Rino, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica tutto. Mia figlia abita per lavoro a 60 km da qua e pensava di comprare un appartamento. Siamo andati a informarsi in banca e preciso che paga 450 euro di affitto in questo momento. E la banca propone finanzia fino al 60% di un eventuale acquisto. Certo. Ecco, come possono pretendere che dei giovani ai primi tempi di lavoro abbiano già da parte altri 50%? Rino, però è anche vero che quando qualche anno fa le banche erogavano il 100% del mutuo, hanno messo in mezzo alla strada tanti nuclei familiari, Vito, se non mi ricordo male, perché ne abbiamo parlato di quei casi, li abbiamo gestiti. Certo. Capito, Rino, sa qual è il problema? Che poi il tasso di interesse pagato su quelle cifre là sono enormi se la banca finanzia integralmente. Vito, che ne pensi? Sì, su questo tema possiamo dire che normalmente le banche possono concedere fino all'80% del prezzo del valore dell'immobile. In queste fasi di stretta creditizia e in cui, ricordiamo, la disoccupazione è al 12,8% e 41,6% giovanile, credo, le banche hanno ovviamente abbassato quello che viene detto loan to value, ovvero la percentuale di prestito che danno in funzione rispetto del valore dell'immobile. E quindi la percentuale dell'ascoltatore è infatti quella più o meno in linea con quelle che vengono concesse in questo momento, 60%. Oggi possiamo dire che il rating dei cittadini è peggiorato, certo. Quindi il merito creditizio dei cittadini è peggiore di quello del 2011, che quando avevamo nella spread... sostanza l'affidabilità creditizia, quindi quanto saranno più o meno in grado di rispettare questi impegni, ed è giusto che le banche lo tengano in considerazione. E questo ce lo dicono anche le sofferenze e i tassi di default del mutuo, che sono cresciuti dall'1,6% al 2%, quindi di fronte a questi dati molte banche anche si coprono e quindi concedono mutui per importi molto minori rispetto al valore dell'immobile. Quando poi si tratta di categorie giovani, quindi che hanno un reddito netto probabilmente più basso rispetto a quello di un lavoratore già affermato, e questo fa crescere le possibilità di un rifiuto, purtroppo, certo, in questo momento storico. Possiamo consigliare dunque alla figlia di questo ascoltatore di cercare di accantonare qualcosina e cercare di predisporre una somma da dare in anticipo, appunto, qualora fosse pronta in futuro all'acquisto, e aspettare magari un po' anche che i prezzi delle case scendano, perché stanno un pochino scendendo, senza una grande corsa, però anche lì qualche movimento c'è. E noi, Deborah, dobbiamo andare a sentire i mercati. Ah, già, sì, è tempo dei mercati. Intanto rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi. 800 24 00 24, pressione da mutuo e pressione da stress. Cuore e denari. Manco di concentrazione. Si situazioni stressanti possono alterare temporaneamente la pressione, ma se questi sbalzi si verificano con frequenza, possono alla lunga produrre danni? E poi, nel caso, che possiamo fare? Rassegnarci, attrezzarci, preoccuparci o più semplicemente misurarci la pressione ogni tanto? Io proporrei una cosa un po' diversa, che è occuparcene. Quindi misurare la pressione, ma misurare anche gli altri fattori che hanno a che fare con la salute, che vuol dire l'alimentazione, il peso corporeo, la cintura, che è così importante, fare attività fisica e non essere inattivi, perché la sedentarietà è un elemento almeno altrettanto pericoloso quanto la pressione, e poi scegliere bene il tipo di attività fisica e non caricare la testa scaldandola troppo, avrebbe detto Aristotele, se ricordiamo prima. Allora, facciamo una formula anche noi. È rimasto un po' invidiosetto della formula che ci ha dato Vito Lops, che i nostri ascoltatori stanno chiedendo a gran voce. Vediamo se la sua ha lo stesso appeal. Invidioso non è il termine esatto, affascinato, perché stiamo cercando da un po' di anni noi medici di introdurre questo concetto nella medicina pratica. Gli americani, che sono sempre avanti a noi di 20 anni, hanno queste formule da molto tempo. Noi gira la formula della misurare il rischio cardiaco, il rischio coronarico, che contiene la pressione. Però questa formula è un po' segreta. Dovremmo farla diventare un elemento di tutti. Allora, pressione giusta, peso giusto, alimentazione giusto, attività fisica giusto, stress giusto, non no stress. Stress giusto, lo stress fa salire la pressione, ma dobbiamo occuparci dello stress e saperlo gestire. Ne abbiamo parlato altre volte. Lo stress è quindi una questione gestibile, la pressione è gestibile con i farmaci, con l'alimentazione corretta, il sale va tenuto presente, non essere obesi, e questo è un altro problema. Certo. Quindi mettere insieme tutti questi elementi, rivolgersi al proprio medico, fare uno stress test allo stress e alla pressione, e da lì occuparci di proporre degli obiettivi concreti. Se uno ha 120-85, sarebbe meglio un pochettino meno, secondo gli americani in particolare, ma direi che va bene. Soprattutto c'è da domandarsi, ma lei, chiedere a questo ipotetico paziente, quanto è di peso? Quanta attività fisica fa? Quant'è il suo stress? Tutti questi elementi messi insieme, il medico li può poi, in maniera un po', non dico magica, ma come se fosse, tradurre in suggerimenti concreti da dare al paziente. Ed è, Deborah, la stessa cosa di quando Vito diceva: bene, quanto guadagnate, togliete le spese fisse. La rivogliamo dare questa formula, Vito? Sì. Allora si parte dal reddito netto, quindi non lordo, reddito netto dei componenti del nucleo familiare, poi si sottraggono circa 800 euro di quote di sussistenza adibite al pagamento di bollette, alimentazione, eccetera, e poi per chi ha dei figli si sottraggono 200 euro per ciascun figlio. L'importo nettizzato che otteniamo va diviso per 1,5, e quella cifra lì è più o meno la rata sostenibile per quel reddito di quel nucleo familiare. Quindi quando ci si reca in banca per chiedere un immobile che costa 1 milione di euro, che ha una rata il triplo di quella che si può sostenere, basta fare qualche simulazione online cambiare subito immobile, quindi per mettere un po' i piedi per terra. Parlavamo prima anche degli imprevisti che possono colpire il nucleo familiare e che possono un po' scombinare il bilancio della famiglia in un arco di tempo mensile, ma non solo, ma ci sono anche gli imprevisti che capitano nel mercato, Vito, perché se una famiglia ha optato per il mutuo a tasso variabile, magari partendo da una rata molto sostenibile e molto bassa, se ci ricordiamo bene quello che è successo nel 2008, quando i tassi di mercato sono volati alle stelle, in quel caso in maniera del tutto inconsapevole le rate hanno preso il volo e molte famiglie si sono trovate in difficoltà. Quindi un'altra simulazione che si può fare è quanto può crescere la rata nel tempo se si verifica una condizione di mercato eccezionale come quella di allora. Infatti il secondo passaggio per chi, dopo le simulazioni, dopo aver effettuato lo stress test, effettua simulazioni di mutui a tasso variabile e verifica che si trova in una condizione favorevole per chiederlo, è comunque effettuare simulazioni sulla rata a tasso fisso, perché le stesse banche, anche se concedono mutui a tasso variabile, mm-hmm. nella fase di istruttoria in cui verificano la capacità patrimoniale e reddituale del mutuatario, verificano se questo mutuatario può pagare la rata fissa, anche se poi gli concedono il variabile, che è solitamente più basso, perché in quel fisso si ipotizzano quindi degli aumenti del variabile e quindi la sostenibilità nel lungo periodo del mutuo. Quindi quanti aumenti sei in grado, in prospettiva appunto, di tollerare? Professor Pagani, come i mutui, anche per la pressione dobbiamo stare attenti ai numeri. Per la pressione abbiamo un valore per la minima, uno per la massima, sono due valori ugualmente importanti, ma acquistano un'importanza direi particolare in base anche all'età. Allora, se lei è d'accordo, dividiamo i nostri ascoltatori in due gruppi, over e under 50, i giovani e i diversamente giovani, gli abilmente giovani. Bellissima perché sono definizione. Abilmente, mi piace di più che diversamente, perché è difficile, anzi non vorrei dire difficile, è impegnativo, stimolante rimanere giovani nonostante l'età. Ma prendiamo il caso di un giovane uomo, gli diamo un 35 anni, è leggermente in sovrappeso, quell'accennino di pancetta che insomma fa anche carino. A quale valore deve stare particolarmente attento, alla minima o alla massima? In realtà tutte e due hanno un peso equivalente, ma aggiungo e dico che è molto importante che la pressione è uno dei componenti di una formula da cui si può sapere qual è il livello di salute che si ha. Quello su cui adesso il mondo accademico e clinico si sta rivolgendo è non solo quantificare il rischio di malattia, ma anche il livello di salute, che mi piace di più. Un attimo prima. Uno non è ancora malato, però vediamo quanto è sano, esattamente come le banche si interrogano su quanto uno ha sano il bilancio familiare. Mm-hmm. Questo mi piace come idea, la venderò, proprio perché è un buon modo di comunicarlo. E bisogna dire quanto è il livello di salute, perché allora non possiamo aumentare la salute. Se la pressione è 120-80 c'è poco da fare, ma se uno è sovrappeso lì c'è da fare, quindi quel livello di salute sarà basso. Se per sovrappiù è anche sedentario, perché in genere chi è sovrappeso non è che faccia molta attività fisica, altro elemento che non va bene. Poi cosa mangia? Mangia frutta e verdura o no? Mangia salato o no? Prende le bevande gassate e dolcificate con quelle lo zucchero? Quelle non vi piacciono, eh? Quelle non piacciono agli epidemiologi. A me piacciono moltissimo. Ogni tanto ne prendo qualcuna che sono molto buone. Però si guarda intorno che non ci sia un epidemiologo vicino, se no zac! No, gliela offro. E lui non la vuole. Dipende. Ma lo spocchioso. Ma quindi, quanto hai tu, Nicoletta? Da quanto non provi la pressione? Io l'ho provata, guarda, non per questa trasmissione, l'ho provata una decina di giorni fa. Io sono una pressione sempre bassa, ho 100 di massima e penso alla minima sotto i piedi. Comunque è meglio averla bassa, no? Assolutamente sì, fino a un certo punto. L'hanno scoperto le compagnie di assicurazione all'epoca più o meno della Seconda Guerra Mondiale, che la pressione alta faceva male al loro bilancio perché dovevano pagare più premi. Quindi sono stati gli assicuratori. A scoprire il problema ipertensione negli Stati Uniti. Dopodiché è stato preso in mano dalla classe medica e soprattutto dall'accoppiata tra governo e investimento in ricerca e scienza pratica, clinica, e si è scoperto che la pressione alta effettivamente fa male. Se la si cura si toglie il rischio ipertensione, ma rimangono gli altri rischi. I rischi legati ai fattori di poca salute, che se uno non li guarda, rimangono lì. Noi impareremo a guardarli oggi, 800 24 00 24. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Andiamo a sentirli, così. Peraltro io sono certa che come il dottor Pagani sta mutuando le idee, i suggerimenti, gli spunti di Vito Lops, anche lui prenderà spunto qualcosa dal dottor Pagani, perché ha un blog molto interessante, Vito, che si chiama L'economia della trasparenza, e devi assolutamente riportarla questa faccenda degli assicuratori quando fanno i furbetti. È fantastica. Ecco qua. Che andiamo a sentire, che abbiamo? Allora, aspetta che apro Angelo il mio Angelo da Mestre, Fabio da Brescia, Antonio da Padova. E quindi ottimo, partiamo. Vai. Da Mestre. Buongiorno, Angelo. Buongiorno. Eccoci qua. Angelo, ricambio. Vada. Buongiorno. Buongiorno a lei. Siamo molto contenti di sentirlo, ma vorremmo sentire la sua voce. Andiamo. Allora, che è una causa che può essere anche a stress da mutuo. Io, per carità, non penso che può di essere stressato per questo, però è una cosa che un po' dà fastidio, che comunque quando la Banca Centrale Europea abbassa il tasso, io ho un tasso variabile, puntualmente l'Euribor cresce e quindi no, non si paga mai di meno, anche se è un variabile, anzi le dirò, si paga sempre di più. Ma che differenza c'è, Angelo? Che differenza riscontra? Perché l'Euribor è veramente rasoterra, minimi storici, deve aumentare, non può andare sotto. Mi sto controllando sempre, tengo sempre sott'occhio perché ho il mutuo da una vita, insomma, ne ho sempre avuto i mutui sulle spalle. E comunque anche di quei 10 euro, 15 aumenta ogni volta, poi alla fine ogni volta, cioè, se abbassa, se la Banca Centrale Europea abbassa il 0,25, poi alla fine pago 10-15 euro in più. Ma i tassi interbancari a cui si parametra il mutuo, Angelo, non hanno nulla a che fare con i tassi della BCE, o almeno relativamente a che fare. I tassi interbancari sono un'altra storia, ma adesso glielo spieghiamo. Angelo, dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Naturalmente, sì, è ora. Sono le 11, stiamo un pochino, stiamo sfarando un po'. Cuore e denari. C'è da fare bla bla, mi suggerisce Nicoletta Carbone, però i nostri sono dei bla bla leggeri ma sempre molto costruttivi. Stiamo parlando di mutui stamattina, allora prima di andare con il prossimo approfondimento rapidamente rispondiamo al nostro ascoltatore di Mestre, Vito, che si lamenta del fatto che i tassi praticati dalla Banca Centrale Europea sono molto bassi, però lui dice più la BCE abbassa più il mio mutuo sale. Perché non sono le rate di questo mutuo parametrate al tasso della BCE, ma ai tassi interbancari. So che è tutto molto difficile da capire, però purtroppo è un altro mercato, è un altro mondo. Vito. Certo, l'Euribor è la media a cui un panel di banche prevalentemente europee si presta denaro. È accaduto che nel momento di crisi degli ultimi anni poche banche di questo panel si prestassero denaro tra loro, ma lo prendessero direttamente dalla Banca Centrale Europea, e questo paradossalmente ha favorito la discesa dell'Euribor, perché se lo prestavano tra loro solo quelle con rating molto alti, e quindi chiedevano in cambio tassi molto bassi, facendo sì che l'Euribor fosse molto basso, più basso del tasso della BCE. Quindi in questi ultimi 2-3 anni lamentarsi tra virgolette dell'Euribor è un po' ardito. Certo, quello che ha visto Vito è Angelo da Mestre, è il primo di un po' di aumenti che probabilmente arriveranno prossimamente, perché è inevitabile. Perché quando il mercato si normalizza salgono un po' i tassi e anche l'Euribor tende a salire. Ricordiamo che la media storica dell'Euribor è intorno al 3%, adesso lo abbiamo allo per quanto riguarda 0,12, 0,30 per quanto riguarda il 3 mesi, quindi siamo davvero allineati in questo momento al tasso della BCE, che è lo 0,25%, quindi poi a fine dicembre c'è stato un piccolo scostamento al rialzo, ma non è giustificabile come uno spostamento dell'Euribor tale da far aumentare di molto la rata, quindi... Insomma, Vito è anche, fa il lavoro di un medico, professor Pagani, in effetti, no? Se noi guardiamo, quando voi monitorate anche la pressione, anche nell'arco delle 24 ore, vedete, e noi lo sappiamo, che ha degli andamenti, va un pochino più su, poi va un pochino più giù, insomma non è sempre uguale, dovete stare attenti ai movimenti, perché anche la pressione si muove, per fortuna. Assolutamente, e come chi si occupa di movimenti economici dobbiamo guardare a come la pressione si muove, perché normalmente è più alta di giorno, quando lo stress fisico, l'attività fisica e lo stress mentale, lo stress di cui parliamo, è alto, ed è più bassa di notte, e questo è il ciclo circadiano normale. Ci sono dei pazienti per i quali la cosa è a rovescio: o non c'è differenza tra giorno e notte, o addirittura peggio, in certi pazienti succede che di notte è più alta che di giorno. Hanno la pressione più alta. Infatti un momento clou per misurare la pressione, soprattutto per le persone che sono in terapia, è al mattino, è vero professore? Direi al mattino, soprattutto tenere presente anche varie possibilità, perché uno se lo può misurare da solo con le macchine attualmente disponibili, che certo, sono di automisura, che vanno verificate sempre, non tutte sono uguali, esattamente come le banche, non tutte sono uguali. Dopodiché bisogna sapere quando misurarla. L'errore più grosso è diventare assillante verso se stessi e misurarsi la pressione. Perché anche ogni quella momento è fonte di stress. C'è chi lo scrive, che infatti lo fa tutti i giorni. Forse troppo. Adesso ne parliamo. Intanto andiamo a sentire Vincenzo, che ci chiama da Roma. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, noi ci siamo. Sì, buongiorno. Bada. Congratulazioni per la trasmissione, che seguo sempre molto volentieri. Ottimo. E sarà molto fortunato, Vincenzo. Mi dica. Allora, io ho 68 anni, prendo la pillola per la pressione. Sì. E sono stato dal cardiologo, il quale ha detto che la mia pressione, essendo non ha una conseguenza, l'aumento della pressione non è una conseguenza del cuore, e mi ha inviato al neurologo, il quale mi sta facendo fare una serie di analisi. Va bene, ma venga la domanda, Vincenzo. La domanda è: per quale motivo quando la mia minima arriva a 100 ho forte mal di testa tanto da rimettere? La minima è un valore importante, professor Pagani, dovrebbe essere, come dice il nome, più bassa e attestarsi intorno agli 80. Un 100 di minima sembra un valore abbastanza alto, professore. È sicuramente al di sopra del range considerato normale. Il limite massimo del normale è 90 mm di mercurio per la minima. Ma è anche molto importante considerare la massima, essere sicuri se la sua è un'ipertensione la cui causa è sconosciuta, noi diciamo essenziale, o se c'è una causa specifica, particolare. Direi che questa è la domanda che io porrei ai suoi medici che la stanno seguendo: se hanno individuato un'ipertensione essenziale complicata da crisi di cefalea nel suo caso, oppure se si tratta di un'ipertensione secondaria. Ecco. Dite in parole semplici, ditemi che cos'ho. 800 24 00 24. Essere e benessere. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. Familiarità. Deborah, ne abbiamo parlato proprio nelle puntate precedenti. Sì, cognomi. Io volevo chiedere a Vito, contano i familiari, il professor Pagani ce lo commenterà, per chi ha la pressione magari un po' alta, se ci sono i genitori tutte e due ipertesi forse dobbiamo fare qualche considerazione, giocare di prevenzione. Ma Vito, anche per il mutuo i genitori contano. Esatto, già che vanno a presentarsi a colloqui di lavoro con i figli, come abbiamo analizzato nella puntata di ieri, forse è più importante qualche volta che vadano in banca con le loro garanzie. Certo, in questo momento in cui dicevamo prima, in cui il rating dei cittadini è peggiorato e la disoccupazione quindi è molto alta, in questo momento molte banche concedono mutui richiedendo, oltre alla garanzia dell'ipoteca, anche la fideiussione da parte dei genitori come ulteriore garanzia. E quindi è tipico delle fasi di restrizione del credito e ovviamente questo è un tema, certo, importante, e quindi in questo caso nell'istruttore verrà anche chiesto qual è la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori. Andiamo a sentire Antonio da Padova, certo, che ci sta aspettando da un po'. Antonio, buongiorno. Le manca un san davanti e siamo a posto, Antonio. Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni, ma mi trovo a Padova in questo momento. Eccoci qua. Io, come ho superato le mie crisi? Mi sono innamorato di una donna. Eccolo là. Bravo! Le compri allora anche una bella casa questa signora, perché se la merita. Sono già alla casa, sto pagando il mutuo, ho saltato già durate, un po' alla volta paghiamo tutto quanto. Quei fornitori, non faccio più assegni bancari, pago online, quando ci sono i soldi in cassa pago. E così ho risolto tutti i problemi un po' alla volta. E certo. E mi sto calmando, mi sono proprio felice. Vedi certo. L'amore fa tutto. Sì, ma fa anche un po' di caos in questi giorni, ne abbiamo visto. E in vedi. Francia, qua c'è una bella questione di parliamo. Cuore batti cuore all'Olanda. Esatto. Domani ne parliamo. Sentiamo anche Paolo da Como prima di andare alla nostra pausa per il giornale radio, quindi mettiamo un po' in cantiere questo caso e poi lo così gestiamo nella seconda parte del programma. Paolo, buongiorno. Buongiorno, ecco, sono Paolo. San Paolo da Como. Allora, lei, Paolo. Facciamola solo beato, Paolo. Esatto, adesso su. Un attimo, perché. Qua non è che si possono dare queste aureole così a caso, ecco, ci dica. No, niente, io volevo solo chiedere all'esperto. Io ho un mutuo di 25 anni, mi sono rimasti 15 anni da pagare. Se avrei. Cioè, potrei anche saldarlo, se mi conviene o no. Pago una rata di 280-290 euro al mese. Uno. E poi? Poi so che anche un appendice sulla pressione, Paolo, da dirci, così? Sì, no, la pressione stamattina l'ho misurata a 130-80, ho 48 anni. Allora, il nostro Paolo Beato ci aspetta, dopo il GR ci occupiamo di lui. Grazie. Cuore e denari. Lo accendo, non lo accendo, mi stresso, non mi stresso, e vado sotto pressione. Ma quando dico che sotto pressione, la mia pressione è davvero sotto o invece si è alzata un po'? Ha avuto, come si dice, uno sbalzo? Di questo stiamo parlando oggi a Cuore Denari, un argomento perfetto che parla di salute e quindi parla di denari, perché la pressione è un indicatore importante della nostra salute. Spesso viene considerato un fattore di rischio, ma come il nostro professor Pagani ci spiegava, può essere un indicatore che ci aiuta ad occuparci di noi e quindi a mantenere o a recuperare il benessere. Voilà, vogliamo occuparci di Paolo, del beato Paolo da Como, che ci ha fatto una doppia domanda, come usano fare gli ascoltatori che hanno interpretato appieno la filosofia e il cuore di Cuore Denari. Ci fa una domanda sul mutuo che gireremmo a Vito e una domanda sulla pressione. Ci dice che ha 46 anni, insomma intorno ai 45, e ha 130-80. Allora, sembrerebbe un valore non basta, come lei ci ha spiegato, ma, professor Pagani? Ma se lo prendiamo dal punto di vista dello stress test sulla salute, la pressione è solo un elemento. Diciamo che 130-80 va bene, ma il peso, l'alimentazione, l'attività fisica, lo stress, il colesterolo, tutti questi valori messi insieme fanno un quadro di salute. Lei è un po' come le banche, professor Pagani, vogliono sapere tutto. Noi gli diciamo la pressione, il professor Pagani vuole sapere l'età, l'attività fisica, il colesterolo, il peso. Pensa quando vanno a trovarlo i suoi pazienti, sono lì che trema. Fanno un po' come il mio medico, professor Pagani, che prima chiacchiera un po' con me, poi mi fa: adesso che ti sei calmata ti misuro la pressione. Giusto. È così, eh? Giusto, mi distrae un attimo e poi non ce l'ho alta, cioè molto corretta, mi sembra. Ma non si può misurare la pressione appena uno entra nello studio, appena ci vuole un po' di destra o sinistra il braccio, esatto, ci chiedono gli ascoltatori. Esatto. Tutte e due, la prima volta almeno. Ah, questo non lo sapevo. Perché vedi? Ci possono essere delle malattie per cui la pressione è diversa tra le due braccia. Va misurata anche alle gambe. E qui è un po' più complicato. E lo lasciamo per la prossima volta. Volentieri, okay. Ma intanto il professor Pagani resta qui insieme a noi sino a chiusura della nostra trasmissione, perché partono le telefonate, rispondiamo naturalmente ai nostri ascoltatori. E Paolo era ancora in sospeso, esatto, con una domanda sul suo mutuo, che ha da 25 anni. Chiudo o vado avanti? Allora, io dico sempre questo, quando anche in passato facevamo queste trasmissioni, io, Deborah Rosciani, dicevo sempre: se potessi io me lo toglierei di torno, però poi bisogna vedere se si ha la disponibilità economica per farlo, perché per chiudere il mutuo, se ti bruci tutti i risparmi, anche quella non è una buona scelta. Però prima di interpellare Vito Lops, io direi che posso interpellare chi si confronta tutti i giorni con molti clienti, con molte persone che vogliono accendere un mutuo e poi per loro va a negoziare in banca. Allora ringrazio e saluto, perché è con noi Giancarlo Vinaci, l'amministratore delegato di Mediofima, che è un'associazione che raggruppa la categoria degli agenti in mediazione creditizia. Dottor Vinaci, ho detto tutto correttamente? Buongiorno. Ha detto tutto quasi correttamente. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quasi, non perché? È una società che fa capo alla più grande associazione italiana, che segue consumatori nei confronti di quelle che sono le problematiche di mutui, assicurazioni e tratta con le banche. La faccio allora subito fare il suo lavoro questa mattina. Lei, se fosse venuto nei suoi uffici il nostro ascoltatore di Como, Paolo di prima, che dice: io vorrei togliermi di torno questo mutuo, no, non voglio più pagare tassi di interesse, un onere, c'è un pensiero in meno. Lei che dice, dati i tassi di mercato che ci sono in questo momento, vale la pena fare questa scelta? Se giudichiamo solo l'economia, poi c'è tutto l'aspetto della questione personale, che è un altro paio di maniche, no, dottor Vinaci? Assolutamente sì. Ma il consiglio che io darei come per un medico, dipende da tutta una serie di fattori. Se il cliente ha la liquidità e si può togliere il mutuo, io in questo momento in cui, indipendentemente dall'Euribor, i tassi complessivi, quindi spread e Euribor, sono molto bassi, consiglierei al cliente di tenere i suoi soldini e aspettare. Ma dico questo perché molto spesso ci si lamenta che i tassi sono alti, è vero, però il parametro vero è quanto pagano le banche oggi il denaro. Se un cliente va in banca, il 3% lo prende, non si può pretendere di avere un mutuo a meno. Per cui lui si investe i suoi soldini al 2,5-3%, continua a pagare tranquillo e vediamo come vanno le cose. E questa, insomma, poi c'è tutta la questione, come dire, personale. Se proprio per lui questo impegno è faticoso, è fonte di stress, come stiamo dicendo questa mattina, se lo può anche togliere di torno, ma qui poi deve fare quattro conti nella sua casa. Dottor Vinacci, un'altra domanda per raccontarci solo rapidamente qual è la sua idea sull'andamento del mercato in questo momento. C'è qualche segnale di risveglio, qualche buona notizia? Più famiglie che provano ad entrare in banca, a fare una chiacchierata col direttore per vedere se questo ha disponibilità ad erogare un po' di soldini per comprare la casa? Quali importi medici sono in questo momento? Ci dà qualche dato? Sì, guardi, beh, intanto cominciamo con il dato di come è andato il 2013. Il 2013, per quello che riguarda il mercato dei mutui residenziali, chiude con una decrescita ulteriore di oltre il 10%. Aspettiamo i dati ufficiali da Banca Italia, ma a fronte dei 25 miliardi di erogato totale che ci sono stati nel 2012, stiamo viaggiando intorno a 22,5 per il 2013. E ricordiamo che nel 2007 erano quasi 60 miliardi. Infatti, abbiamo toccato il fondo, secondo lei? Abbiamo toccato secondo me sì, e quello che le dico lo colgo dalla volontà delle maggiori banche con le quali lavoriamo quotidianamente, che hanno proprio volontà di ripartire, stanno studiando prodotti nuovi, c'è qualche disposizione di legge che dovrebbe favorire una fascia che è stata un po' penalizzata, che sono i giovani fino a 30 anni, che nell'anno scorso hanno rappresentato solo il 28% delle domande di mutuo, in passato superavano ampiamente il 50%. Quindi tutta una serie di manovre che ci fanno pensare che non torneremo al 2007, al 2008, ma sicuramente il 2014 ce lo vediamo positivo rispetto agli anni passati. E quindi, insomma, diamo un po' di iniezione di fiducia alle famiglie. Poi, tra l'altro, non è mica detto che sia una cattiva notizia che non si ritorni alla situazione del 2007 e del 2008, perché lì c'era anche un po' un'euforia e un'esagerazione nel concedere credito, Vinacci, ma magari ne parleremo un'altra volta. Intanto grazie e buona giornata e buon lavoro. Grazie. A presto. Arrivederci. Grazie. 800 24 00 24, continuate a saltare e a superare la nostra barriera rosa, i nostri esperti sono qui pronti a rispondere alla vostra domanda. Se il dottor Vinacci ci ha aiutato a trovare il mutuo giusto, il vostro medico vi aiuta a tenere sotto controllo la vostra pressione e, trovandola leggermente fuori norma, che cosa vi ha suggerito? Oppure ci avete pensato voi ad attrezzarvi? Ma come? Cosa avete fatto? Avete ridotto il sale? Avete fatto un pochino di attività fisica? Vi siete iscritti ad un corso di yoga perché magari avete legato le variazioni pressorie ad un problema di stress? Oppure vi siete dati alla liquirizia? 800 24 00 24 c'è Mauro in linea con noi da Firenze. Buongiorno, a proposito di liquirizia. Infatti, sì, buongiorno. Ce ne eravamo accorte. Sono un golosso di liquirizia e da quando ho smesso di fumare circa una quindicina di anni fa ho sostituito le sigarette con la liquirizia, che comunque ne faccio un consumo abbastanza contenuto, circa pochi grammi al giorno. Sono quei piccoli tronchettini di liquirizia pura. Li conosciamo bene. Due dopo pranzo e due dopo cena, per cui è un consumo molto limitato, molto. Però ecco, non sono un iperteso, ho la mia pressione, ho 67 anni. Non ha fatto il mutuo o l'ha fatto? No, l'ho già fatto, per fortuna esaurito già. Via, se l'hai buttato tempo, dietro alle spalle. Bravo. E a suo tempo, nell'87, quando l'ho fatto, pagai il 15%. Com'è? Appunto, no? Ecco, per chi si lamenta dei tassi e delle rate che aumentano adesso. Ora va alla grande, se trovano i soldi, ovviamente. Vito, immagino che in quel periodo fosse tutto proporzionato, anche i rendimenti dei bot erano molto alti, l'inflazione era tutto su una scala. E poi le banche erogavano molto meno, perché non credo che andassero oltre il 50% dei valori delle case, che non hanno nulla a che fare con i prezzi di adesso. Altre epoche, direi, altri secoli proprio, è il caso di dirlo. Ma vogliamo tornare alla liquirizia? Perché la domanda di Mauro qual era? Posso mangiarla? Mi farà salire la pressione? Ecco, no, perché lo dicano, c'è scritto anche nella scatolina, dice gli ipertesi facciano attenzione, il medico lo dice, va bene. Io ho addirittura comprato una di quelle macchinettine fai da te per la pressione. E così, e all'inizio ovviamente ero lì ogni ora a misurarmi. Poi invece l'amore è passato, perché bisogna usarle con grano salis, a proposito di sale che fa salire la pressione. Professor Pagani, il misurarsi, andiamo, perché sulla liquirizia vorrei parlare con il dottor Massimo Gualerzi, che è in linea con noi. Buongiorno, dottor Gualerzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma, all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, ha scritto grande un libro. Sciatore, perché l'ultima volta che l'abbiamo pescato era sulle piste. A Madonna di Campiglio, tanto per... Professore, lei accennava alle macchinette per misurare la pressione. Dobbiamo ogni tanto controllarle, o dobbiamo misurarla un po' a caso, un po' dal farmacista, un po' dal medico? Come si fa? Si sceglie la macchinetta che è targata appropriata per misurare la pressione, non tutte lo sono. Mm-hmm. E come facciamo a riconoscerla? Si parla col proprio medico, sì, il quale, soprattutto se si intende di ipertensione, ha accesso a una tabella di prodotti che sono appropriati e sono stati in un qualche modo considerati utilizzabili dalle società scientifiche appropriate. Ok. Ah, quindi non è che uno la compra e se la porta a casa così, è meglio che parli con il proprio medico. È come il mutuo, si sceglie la banca ma giusta. Ma è troppo facile, ho capito. Poi ci si fa spiegare come si fa, si impara, è banale misurare la pressione, ma ci sono delle piccole accorgimenti che vanno tenuti presente, come si mette il bracciale, dove si mette, assicurarsi, si diceva prima destra o sinistra, assicurarsi di non essere rientrati di fretta avendo fatto magari 5 piani di scale, non appena dopo mangiato. O dopo un caffè? Ma il caffè è relativamente poco importante. La domanda perché si misura la pressione deve essere chiara. Si misura la pressione perché una paura di essere iperteso, e allora questa è una questione da affrontare col proprio medico, perché se una paura di essere malato non fa l'autodiagnosi. No. La pressione come numero, siccome cambia, dipende da tanti elementi esterni, va valutata in un contesto, esattamente come col mutuo, si va in banca e si parla con l'esperto e ci fa aiutare. E qui è uguale. Quando si è finalmente imparato bene, si scopre che non è più necessario misurare la pressione, perché per la terapia dell'ipertensione, se si è malati di ipertensione, si tratta prima di mettere a punto bene l'approccio terapeutico, che è globale, non è soltanto i valori di pressione, ma ripeto ancora, è come si vive. E allora ci vuole, possiamo forse cominciare a usarlo, un bollino verde del come si vive, pressione giusta, modo di vivere giusto. E ne parliamo anche con il dottor Gualerzi, che ci dà qualche indicazione pratica a partire da questa liquirizia che preoccupa Mauro da Firenze, ma a Mauro piace molto. Dottor Gualerzi. Sì, la liquirizia ormai è stato anche studiato non solamente come chiacchiera da bar, appunto, che fa aumentare la pressione. In realtà il suo effetto principale è proprio quello di evitare la degradazione del cortisolo, che è appunto l'ormone dello stress, quindi questo ormone resta più in circolo e questo comporta il fatto che tratteniamo acqua e sale. Pensi che bastano circa 50 grammi al giorno per 2-3 settimane per aumentare notevolmente o comunque in modo significativo la pressione. Logicamente, come tutte le cose che riguardano la sfera sanitaria, non è proprio matematica, quindi non è detto che il nostro appunto radioascoltatore, consumando abitualmente la liquirizia, abbia la pressione più alta, però magari se non la consumasse, cioè se appunto facesse meno della liquirizia, la sua pressione sarebbe sicuramente più bassa. Però mangia la liquirizia per non fumare, quindi liquirizia vince fumo, diciamo così, non possiamo mica avere tutto. Accontentatevi un po' anche voi medici. No, ma io dico, tra i due mali è meglio appunto la liquirizia rispetto al fumo, sicuramente. Senta, dottor Gualerzi, sappiamo che il sovrappeso incide anche è un fattore di rischio e ha un po' una relazione anche con la nostra pressione. È vero che perdendo qualche chilo ritorna anche la pressione nei valori normali? Sì, in realtà, dunque, gli studi che sono stati compiuti ci indicano con precisione una relazione fra chilogrammi di peso perso e pressione che si abbassa. Purtroppo vi devo dire che a fronte di un chilo perso la pressione si abbassa di circa un millimetro di mercurio, quindi diciamo che 5 chili comportano 5 millimetri di mercurio, diciamo, 5 chili sono tanti, 5 millimetri sono pochi. È logico che spesso però questo significa prendere magari una pillola in meno, e questo, se si vede in questo aspetto, è molto utile, tenendo conto che quando si perde peso alla fine non è che si abbassa solo la pressione, ma si riducono anche tutte quelle sostanze tossiche, infiammatorie circolanti che contribuiscono al rischio. Quindi, e questa linearità, cioè perdo peso, perdo pressione, è vera sia in quelli che hanno la pressione alta, ma anche in quelli che hanno la pressione normale. Quindi perdere peso conviene sempre perché tiene la pressione più bassa, ricordando che la pressione normale è 120-80 a tutte le età, e se anche un pochino più bassa è meglio. Dottor Gualerzi, quindi cerchiamo di mantenerci in forma con l'attività fisica, che è anche un potente alleato per tenere sotto controllo la pressione e non farla salire, e anche con la riduzione del sale, di cui noi abbiamo parlato tante volte, di cui vi invito ad andare a vedere i consigli dietetici, le ricettine sfiziose della dottoressa Paola Reverso che abbiamo sul sito. Dottor Gualerzi, lei ha un altro suggerimento? Ma diciamo che il sale sicuramente va ridotto. Teniamo sempre a dire che ne mangiamo circa 10 grammi al giorno e ne dovremmo mangiare 4, e la maggior parte del sale è dentro gli alimenti. Una cosa che spesso non si considera tanto è l'utilizzo un po' smodato negli ultimi tempi degli antinfiammatori, quindi dei farmaci che tolgono il dolore. Questi farmaci, è stato dimostrato che quando uno ne consuma più di una settimana, hanno un impatto devastante sulla pressione e sul rischio cardiovascolare, quindi dovremmo moderare l'assunzione anche ormai abbastanza libera, no, di questi farmaci. Le altre cose invece da fare e non da evitare per abbassare la pressione, diciamo, possono essere mangiare bene, ma soprattutto mangiare alcuni alimenti che fanno anche piacere. È stato dimostrato che 10 grammi al giorno di cioccolato, quindi un quadratino di cioccolato fondente tutti i giorni, almeno con l'80% di cacao, ha un potere antipertensivo, anche fa abbassare la pressione circa dai 7 ai 10 mm di mercurio. Con dolcezza, direi. Quindi direi che è una cosa, in questo caso non può diciamo accusare che i medici consigliano cose, diciamo, cattive, no? Mangiare cioccolato credo che piaccia a tutti. E condire con spezie come il curry o con, diciamo, condimenti come a base di basilico, sono stati anche dimostrati dai lavori scientifici che abbassano la pressione. Mangiare più vitamina D e più potassio, sappiamo che la vitamina D si trova soprattutto nelle aringhe, ma anche la si produce con l'esposizione al sole, quindi stare più al sole abbassa la pressione. Bisogna fare un mutuo adesso per andare al sole, allora ci facciamo consigliare, sì, da Vito. Insomma, sì, beh, no, il sole. Però possiamo certo mangiare alimenti che la contengono, no? Benissimo, sì, non ce ne sono tanti, diciamo che le aringhe sono quelle che ne contengono di più, sono quelle un pochino più, diciamo, che ci danno, perché la vitamina D principalmente la produciamo con l'esposizione solare. Quindi, però possiamo mangiare potassio, che invece lo troviamo in tutta la frutta e la verdura. Anche nelle banane, vero? Anche nelle banane, anche se sono state molto mitizzate, ci sono, diciamo, frutti che ne contengono di più, ma comunque le banane vanno bene, anche se sono abbastanza caloriche, quindi attenzione a non consumare. Poi facciamo un po' una passeggiatina. Grazie, dottor Gualerzi, per essere stato con noi. Grazie mille, grazie, buona voi, giornata. Abbiamo molte domande sulla pressione, ne peschiamo un'ultima sui mutui, così lasciamo andare Vito Lops. Stefano da Firenze, pronto? Sì, non sento più Stefano. Sì, no, è che io non sento più dalla mia cuffia, quindi sì. Eccoci qua, non so che cosa stia succedendo. In ogni caso c'è Stefano da Firenze che credo voglia parlarci di una terza via per comprar casa che stanno esplorando molti dei nostri appunto ascoltatori e molte delle famiglie che ci ascoltano. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Sì, io ho sentito il signor Vito, il quale diceva appunto di valutare la situazione tra l'affitto e il mutuo. Ora sta tornando un po' discorso. Qualche problema con qualche cuffia, però io vedo quella che era la sua domanda. La terza via per comprar casa oggi. Noi abbiamo parlato anche in una vecchia puntata di Salvadanaio con il notaio Busani, e l'affitto con riscatto, il rent to buy. Magari non abbiamo il tempo adesso assolutamente, perché ci manca un minuto prima della chiusura della trasmissione, per approfondire questa modalità. Ti risulta che sia gettonata e molto ricercata, Vito? È una modalità molto ricercata nei paesi anglosassoni, che sono all'avanguardia da questo punto di vista, però dal mio punto di vista personale invito a fare molta attenzione a queste modalità, perché diciamo, fanno riferimento, cioè, all'ipotesi che poi dopo 3 anni il soggetto sia poi in grado di riscattare effettivamente l'immobile, perché in quel caso, in caso contrario, diciamo, la convenienza dell'operazione è decisamente più bassa, dato che le rate di questo mutuo per questi 3 anni sono molto più alte rispetto a un mutuo normale. Quindi se uno ha in mente un percorso di crescita proprio del suo reddito, del suo patrimonio, allora già può pensare, lo può valutare confrontando sempre i TAEG, ovvero il costo finale, non solo gli interessi ma tutte le spese accessorie dell'operazione, altrimenti rischia di essere anche molto esosa. In 10 secondi le indicazioni per il tuo libro, perché qua gli ascoltatori lo stanno già cercando su tutti i siti per la compravendita.online di libri. No, ci sono molti consigli su no, come si chiama? Mutuo Perfetto, edito da? Mutuo Perfetto, edito dal gruppo 24 ore, contiene molti consigli su come abbattere la rata, sia in termini di interessi ma anche in termini di spese accessorie. Abbiamo fatto dei calcoli che un mutuo standard di 150.000 euro su 20-25 anni, comportandosi nel modo perfetto, si può addirittura abbattere su 40.000 euro, perché è il mutuo che si deve comportare bene, non noi, attenzione . Allora noi dobbiamo salutarci, grazie a Vito Lops, grazie per essere stato con noi, per la chiarezza, al professor Pagani, magnifico, certo, a cui gireremo tutte le domande dei nostri ascoltatori che non vogliono andare dal loro medico di base perché preferiscono lei, professor Pagani, e quindi ci deve accontentare. Ci tocca al sacco, tocca. Sono lì, eccoci qua, a domani.